La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Janas di Biancolatte. Le figlie di Calipso. La storia delle Janas che voglio raccontare accadde nella stagione di mezzo che precede quella del sole alto, che noi, comuni mortali, chiamiamo primavera. Sulle Janas, le piccole fate di Hycnos, abbiamo già narrato su chi fossero e come e dove vivessero. Tra le tante stirpi di Janas c'erano pure le discendenti della ninfa Calipso, il cui nome significa colei che nasconde. Calipso era figlia del titano Atlante e grande amica della dea Artemide, la protettrice dei boschi e della caccia. La ninfa aveva la sua dimora ad Ogigia, un'isola situata ad occidente del grande mare, e viveva sola. Fu lei ad accogliere il naufrago Odisseo durante il suo ritorno in patria, dopo la vittoria e la conquista e la distruzione della città di Troia, offrendogli persino l'immortalità. Ma Odisseo, che bramava rivedere la sua piccola isola di Itaca, non accolse il suo invito e dopo ben 10 anni riprese il mare per ritornare in patria. La ninfa Calipso rimase sola e annoiata. Una notte Calipso chiese ad Artemide di poter prendere in prestito il suo carro di luna splendente per fare una passeggiata sul grande mare e distrarsi un po'. Artemide, seppure con molta esitazione, concesse comunque a Calipso il suo carro, ma solo per una notte. Calipso salì sul carro di luna splendente e con grande sorriso si involò verso la passeggiata sul grande mare. Durante la traversata, la ninfa vide dall'alto del cielo una piccola isola illuminata da luna splendente. Era l'isola di Hycnos. Calipso fu colpita subito dalla sua forma, che pareva quella di un sandalo, davvero simile a uno di quelli portati dal padre Atlante. A quella vista Calipso divenne curiosa, fermò il carro, lo sospese nel cielo e, rapida, scese ad esplorare quell'isola sandalo. Appena vi approdò, scoprì una terra ricca di foreste rigogliose, impregnate di profumi sconosciuti e abitata da animali di ogni specie. Durante il cammino sull'isola, Calipso notò che essa non era abitata da molti umani. Alcuni facevano i pastori, altri i contadini e qualcuno, ma erano molto pochi, si dedicava alla pesca. Sempre più rapita da tanta bellezza, la ninfa decise di avventurarsi verso le montagne. Durante il cammino sentì un profumo sconosciuto. Era forse quello ammaliante di un frutto? Quasi, ma non era un frutto. Seppe poi che quel profumo apparteneva ad un cibo di cui i pastori si nutrivano. La chiamavano ricotta. Odorava di fieno bagnato e si ricavava dal latte fornito dal bestiame in allevamento. Calipso giunse in un villaggio di pastori. Tutti si meravigliarono della bellezza di quella fanciulla e subito l'accolsero con grandi onori, offrendole cibo e bevande. Non sapevano affatto chi lei fosse. D'altronde, non sapevano nemmeno dell'esistenza di divinità oltre l'isola di Hycnos. Altri erano i protettori da loro venerati. Calipso sedette alla tavola di quella gente. C'erano donne, uomini, fanciulle e bimbi dal viso sereno e ridente che la osservavano, affascinati e pieni di curiosità. Verso la conclusione del pasto, un pastorello comparve alle spalle di Calipso, offrendole un grande pezzo di ricotta profumata. Quel fanciullo era scuro, come quasi l'ebano. Aveva capelli folti e ricci, occhi luminosi e azzurri. Il suo sorriso splendeva ed era sorretto da due file di denti bianchissimi che parevano un gregge di pecore candide. E anche quel giovane si portava dietro quell'odore di ricotta e fieno. Fu quell'odore intenso a far scattare nella ninfa Calipso il desiderio d'amore verso il giovane pastore. Terminata la cena, tutti si misero attorno ad un grande fuoco, riempendo la notte dei loro canti e le loro danze. Il giovane pastore e Calipso stavano sempre vicini, avvinghiati, con i loro sguardi pieni di passione. Quando tutti andarono a riposare, Calipso e il giovane pastore si inoltrarono tra vicini cespugli di mirto e si amarono. Quella notte Calipso generò le piccole fate Janas. Il mistero di quel prodigioso amore volle che quella notte stessa nascessero dal grembo della ninfa migliaia e migliaia di Janas, che furono subito avvolte e protette da una nuvola di lucciole. Intanto il titano Atlante, che era impegnato a sorreggere sulle spalle la volta celeste per ordine di Zeus, non vedendo da un po' di tempo la figlia Calipso nell'isola di Ogigia, chiese notizie agli dei. Artemide subito si fece avanti e disse ad Atlante d'aver concesso alla ninfa Calipso il permesso di poter prendere il carro di luna splendente, ma il patto era che dovesse condurlo solo per una breve passeggiata tra le stelle. E Calipso mancava già da parecchie ore. E questo era un grosso guaio, perché l'aurora stava quasi per scacciare la notte e con il giorno fatto il carro di luna splendente sarebbe svanito nel nulla. Atlante, che non poteva levarsi dalle spalle la volta celeste, non potendo muoversi da lì, supplicò Artemide che si andasse in cerca di Calipso. Artemide incaricò il fratello Apollo di salire sul carro del sole e andare a cercare la figlia di Atlante. Apollo legò i cavalli di fuoco al carro del sole e partì. Viaggiò per le stelle tra cielo e terra, domandò notizie della ninfa Calipso a chiunque incontrasse, ma nessuno sapeva, e quei pochi che sapevano non ebbero il coraggio di parlare, perché avevano paura della reazione violenta che Apollo potesse avere. Tutti sapevano del suo brutto caratteraccio. Solo le tre Moire, che erano le streghe che decidevano la sorte degli uomini con il compito di tessere il filo del destino di ciascuno, svolgerlo e reciderlo a piacimento, stabilendone la morte. Ebbene, le tre Moire non riuscirono a nascondere ciò che già sapevano. Infatti, non fu per niente difficile al dio Apollo comprendere dai loro sguardi che esse sapevano e nascondevano qualcosa. Le minacciò di morte se non avessero rivelato quel che sapevano, ma non prima d'averle scuoiate vive e legate come salami con quel loro maledetto filo del destino, proprio come aveva fatto con il povero satiro petulante di Marsia. Le tre Moire, terrorizzate, rivelarono ad Apollo ogni verità. Subito il dio diresse il carro del sole verso la terra in cerca dell'isola di Ichnos. Quando in mezzo al grande mare vide quel sandalo di cui aveva saputo dalle Moire, Apollo gironzolò con il carro del sole d'intorno e trovò il carro di luna splendente della dea Artemide fermo e sospeso in cielo. Di Calipso, però, non vi era traccia. Il dio Apollo decise quindi di scendere sull'isola. In verità, gli uomini dell'isola di Ichnos non amavano fare la spia, tanto più non conoscevano Apollo, ed essendo egli uno straniero, nessuno volle parlare della ninfa Calipso e del pastorello da lei amato. Apollo non poteva nemmeno interrogarli né minacciarli, perché non percepiva in quel popolo la paura degli dèi. Con una certa pazienza e tenacia, per Apollo non fu comunque difficile trovare la ninfa. La scoprì tra alcuni cespugli di bacche di mirto, avvolta in un abbraccio di passione con il suo amato pastorello e circondata dalle tantissime piccole Janas neonate. Apollo, di cui sappiamo quanto fosse invidioso degli amori altrui, nel suo rancore ordinò al sole di scagliare i suoi raggi contro i cespugli dove stavano i due amanti e la loro progenie. Il pastorello fu il primo ad essere trafitto e morì. La ninfa Calipso, non potendo essere trafitta dai dardi del sole, perché sotto la protezione del padre titano Atlante, riuscì a fuggire verso il carro di luna splendente, salì a bordo e si diresse rapida verso la sua isola di Ogigia, dove restituì il carro di luna splendente alla dea Artemide. Molte delle Janas rimaste sotto la pioggia di fuoco morirono. Altre Janas invece furono tratte in salvo dai giganti di roccia viva e portate al sicuro nelle loro fortezze. Le chiamarono Janas di bianco latte, figlie della ninfa Calipso. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net